Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Piazza in piazza, cortei e cori per la scuola, lezioni ferme in elementari, superiori e università. A Roma siamo 1 milione, dicono i manifestanti. A Extra Large ospite la presidente della Commissione Cultura della Camera, Valentina Aprea. Napolitano chiede il dialogo, i tagli necessari in tempo di crisi, ma serve un confronto aperto. Solo 3 italiani su 10 riescono a risparmiare, si consuma più di quanto si guadagna. Domani giornata mondiale del risparmio. Così le trattative sono finite, la CAI frena le richieste dei sindacati e torna in bilico il futuro di Alitalia. Genova isolata, chiusi porto e aeroporto, allagati i binari ferroviari. La mareggiata del secolo fa andare sott'acqua la costa ligure. Italia che cambia, sono quasi 4 milioni gli stranieri nel nostro paese, crescono al ritmo di 500.000 in più all'anno. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. E dunque, da Milano a Palermo il mondo della scuola è tornato ancora una volta in piazza. Oggi, come sapete, è il giorno dello sciopero generale. Resta questo, naturalmente, il tema in primo piano. Allora, cominciamo col capire cosa sta accadendo in una panoramica di quelle che sono le città italiane. Siamo quasi 1 milione in piazza, solo a Roma, così dicono gli organizzatori. Stiamo cercando di collegarci con le città dove i nostri inviati stanno cercando di seguire la manifestazione. In piazza a Roma c'erano anche qualche problema di collegamento, ma naturalmente sono veramente molti. Ore concitate queste, a Roma c'erano anche alcuni politici in piazza. Cominciamo col sentire Veltroni. Il governo dovrebbe ascoltare la voce del mondo della scuola e penso che sia giusto e importante continuare questa battaglia per cercare di spingere il governo a ritirare questi provvedimenti e soprattutto i tagli. Anche con un referendum, noi non siamo, diciamo, gente che usa questo strumento facilmente. E sempre a Roma anche i sindacati in piazza, così Bonanni. Purtroppo capisco chi l'ha fatta, chi la promuove, però ci vuole un anno e mezzo e nel frattempo la scuola crolla. Invece bisogna non guardare a questo appuntamento, ma quanto invece alla crescita continua della consapevolezza degli italiani. No, dunque, di Bonanni invece al referendum. Angeletti, sempre al microfono della nostra Francesca Malaguti. Bisogna evitare strumentalizzazioni politiche perché provocherebbero semplicemente un danno per i lavoratori. Sta passando un po' come la manifestazione contro la riforma Gelmini, questa. Quello che io capisco perfettamente che ci possa essere questa lettura, ma è un grave errore. Noi vogliamo risolvere i problemi della scuola, non conservare la scuola così com'è, perché così com'è non funziona. E allora? E andiamo a Napoli, dove c'è il nostro Enzo Danna, per sentire lì com'è andata oggi. Sì, due diversi cortei che si sono dati appuntamento in piazza del Plebiscito, non moltissimi gli studenti, anche perché la maggior parte ha scelto di recarsi a Roma per la manifestazione nazionale. Davanti alla prefettura, il cui ingresso è presidiato dalle forze dell'ordine, hanno esposto striscioni antiriforma e gridato slogan contro il ministro Gelmini. Insieme, ci tengono a sottolinearlo, studenti di destra e di sinistra. Giù le mani dal nostro futuro, lo slogan emblematico del malcontento dei ragazzi, tra cui anche alcuni genitori e insegnanti. Noi abbiamo sentito alcune voci raccolte seguendo il corteo principale. Sentiamo. Vogliamo far ascoltare a tutta l'Italia la nostra protesta contro lo Stato, perché lo Stato in questo momento sta aiutando, ma ci sta venendo contro di noi, perciò vogliamo protestare. Ecco, ieri il decreto è passato, quindi voi che cosa vi aspettate ora con questa manifestazione? Aspettiamo che questa legge, ci aspettiamo un referendum da parte della sinistra. C'è veramente qualche problema in Italia, qui dobbiamo unirci tutti e lottare contro la Gelmini. Non è finita qua, lotteremo ancora, perché non è giusto. Una manifestazione tranquilla, pacifica, quella degli studenti napoletani, cui si sono aggiunti in piazza del Plebiscito anche due gruppi di disoccupati. Da Napoli ho concluso, linea allo studio. E da Napoli andiamo a Milano, Roberta Pellegatta. Sì, il sole è arrivato a illuminare ricordare la giornata milanese dello sciopero generale della scuola che si era inaugurata in segno della pioggia e anche per un istante della grandine. Io sono in Piazza Duomo dove i manifestanti sono riuniti, il corteo era partito questa mattina dopo le 10 del largo Cairoli, ha attraversato le vie del centro ed è impressionante il numero dei ragazzi, degli studenti delle scuole superiori che si sono radunati da Milano ma anche dai comuni limitrofi, per cui in questa folla di giovani festanti, bisogna dire, perché si susseguono gli slogan ma anche la musica e i cori, si perdono un po' i maestri e le insegnanti delle elementari che comunque ci sono, sono numerosi, sono determinate, sentite quello che ci hanno detto. Siamo qua per dimostrare il nostro dissenso verso il decreto che ormai è passato legge, soprattutto verso il maestro unico e verso i tagli che verranno fatti alla scuola. No, il problema è che le persone, chi lavora veramente dove si è toccati nel profondo non viene consultato e questo è veramente grave. Io dimostro anche come genitore il mio dissenso, perché ho dei bambini piccoli e penso al loro futuro e finora la scuola funziona bene e spero che comunque almeno la scuola primaria non venga toccata. Ecco, proprio in questo momento gli studenti medi e gli insegnanti si stanno spostando da Piazza Duomo e in corteo stanno raggiungendo Piazza Affari per raggiungere gli universitari e i ricercatori che sono arrivati da diversi atenei, tutto ordinatamente senza incidenti, e gli studenti promettono autogestioni e blocchi fino a quando i provvedimenti del governo sulla scuola non verranno ritirati. Ed è tutto da Milano. Grazie anche a Roberta Pellegatta, un po' così in tutte le città italiane. E adesso andiamo a vedere come sulla stampa i vignettisti descrivono la situazione. Cominciamo con Vauro che sul Corriere vede un maltempo, è il titolo, c'è un fulmine che si abbatte su un cartello di quelli che indicano la scuola e i bambini all'interno con i capelli dritti. E invece sul giornale Crancic il titolo è Berlusconi, c'è chi inganna gli studenti, e c'è un Veltroni con in mano un palloncino del Partito Democratico che ha l'aria di chi cerca di corrompere due bambini che lo guardano sotto un cartello con scritto scuola. Intanto a Roma in questi minuti stanno proseguendo anche i discorsi dal palco. Quella di Roma è la manifestazione nazionale per lo sciopero della scuola. Continueremo a parlarne anche più avanti e anche nella nostra intervista. Come sempre dopo la pausa per il traffico avremo ospite Valentina Aprea, presidente della Commissione Cultura della Camera. E intanto di questa mattina un forte appello che arriva invece dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Per affrontare la crisi che interessa il mondo intero, l'Europa e l'Italia, le istituzioni nazionali devono compiere scelte difficili che riguardano la distribuzione di contenimento della spesa pubblica corrente, la definizione di priorità strategiche da osservare anche in questa fase di ristrettezze, ha detto il Capo dello Stato durante la cerimonia di premiazione dei Cavalieri e dell'Alfieri del Lavoro al Quirinale. Poi ha aggiunto Napolitano, perché accada questo serve un confronto aperto, ponderato e costruttivo tra le forze politiche e sociali. Appello per la scuola ma anche per la crisi economica. Le borse questa mattina vanno bene, ma la crisi ha riportato in primo piano anche il risparmio. Cresce il pessimismo degli italiani sul futuro economico, in pochi riescono ormai a risparmiare, così uno studio presentato oggi. Ma ne parleremo più avanti dettagliatamente anche con la nostra inviata. Adesso andiamo a Bologna, dove è in prognosi riservata un tifoso juventino che è stato colpito alla testa ieri sera dopo la partita col Bologna. Stava difendendo il figlio di 16 anni, Emilio Buttaro. Sì, buongiorno, infatti è proprio così, ancora in prognosi riservata. Il tifoso modenese 44enne ferito ieri sera al termine della partita Bologna-Juventus. L'aggressione è avvenuta in via della Certosa, una delle strade adiacenti lo stadio che scorre lungo il cimitero monumentale. L'uomo è in coma farmaceutico ma non in pericolo di vita, poiché sembrerebbe non aver riportato gravi ematomi alla testa. Il ferimento è avvenuto intorno alle 22:30, quando, come confermato da alcune testimonianze, l'uomo è stato colpito da un sasso dopo che aveva difeso il figlio sedicenne a cui alcuni aggressori avevano cercato di strappare dal collo una sciarpa della Juventus. Ne è nato uno scontro concluso con alcune sassate, una delle quali ha colpito il capo dell'uomo che si è accasciato e poi è stato subito portato all'ospedale maggiore. Sono in corso indagini per identificare gli aggressori. È tutto da Bologna, linea allo studio. Grazie Emilio Buttaro. Maltempo un po' in tutta Italia. Sentite cosa accade a Genova. Andrea Ferro. Sì, buongiorno da Genova. Dopo la pioggia di ieri con conseguenze limitate, oggi per Genova, la Liguria di Levante è il giorno dei disagi e dei danni. Spettacolare la mareggiata che, innescata dal libeccio, il libeccio è il vento che soffia da sud-ovest, sta flagellando il litorale genovese e la riviera. Scene, dicono, a camogli che non si vedevano da tempo. Nel caratteristico borgo del Golfo Paradiso le onde hanno scavalcato la diga e allagato la banchina, provocando l'affondamento di alcune imbarcazioni di pescatori e diportisti. E hanno vissuto ore da incubo i 439 passeggeri del traghetto Fantastic, proveniente da Barcellona, rimasti in balia della violentissima mareggiata anche in seguito ad una avaria al motore che ha complicato l'ingresso in porto. All'arrivo in banchina sono state fatte intervenire le ambulanze del 118 per malori a bordo e per alcuni passeggeri rimasti feriti in seguito a cadute provocate dai sobbalzi della nave. A Nervi il mare ha allagato i binari della stazione, ora i treni vanno, ma sulla linea Genova-La Spezia-Roma sono segnalati ancora ritardi. L'aeroporto Cristoforo Colombo è stato temporaneamente chiuso, per tutta la mattina i voli sono stati dirottati in altri scali. Semi-paralisi in porto, allo scalo Vuti e di Voltri sono state sospese le operazioni di carico e scarico dei container. Le previsioni per i prossimi giorni non sono affatto confortanti. Per il momento da Genova è tutto, linea allo studio. Grazie Andrea Ferro, e noi invece andiamo a Roma per parlare di quelli che abbiamo chiamato in questi giorni mille volti della festa del cinema di Roma. A fare discutere questa volta tocca a Fabrizio De André. Dori Ghezzi, compagna del cantautore, ha detto senza troppi giri di parole di non avere apprezzato Amore che vieni, amore che vai di Daniele Costantini, che è liberamente tratto dal romanzo Un destino ridicolo, a firma dello stesso De André e di Alessandro Gennari. Dori Ghezzi, che al Festival di Roma è anche in veste di produttrice di un altro documentario che sviluppa invece spezzoni dell'archivio privato di De André. Fabrizio De André, personaggio e uomo al di là delle sue canzoni. Sullo schermo scorrono tante interviste alle quali il cantautore, che odiava le telecamere, rispondeva con timidezza e ritrosia. La giornalista Teresa Marchesi ha presentato a Roma FDA sulla mia cattiva strada. Il titolo l'ha spiegato Dori Ghezzi. Ma parafrasando un po' la cattiva strada, e poi abbiamo trovato questa foto che è molto emblematica, di lui sorpreso dal fotografo con il bicchiere di whisky, la sigaretta accesa e lo sguardo un po' spento, e fa un gesto di abbasso, come dire, insomma, lasciami perdere, non è diciamo che uno di queste cattive abitudini è stata un po' la sua condanna. Dori ha amato collaborare con Teresa Marchesi e dice: così conosco ancora meglio mio marito. È incredibile, perché sarà vero che io l'ho frequentato più di altre persone. L'ho conosciuto, se vogliamo, di più, ma non so se l'ho capito meglio di altri. Ma come canterebbe il mondo di oggi, Fabrizio De André? Il nostro mondo attuale ce l'ha già raccontato prima. Di conseguenza io penso che adesso forse lui volterebbe pagina nell'area romanticismo in questo momento, che ne avremmo tanto bisogno. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13 e 17 minuti, GR24 Extra Large. Lezioni ferme in elementari superiori e università, nelle piazze, le manifestazioni per la scuola. A Roma siamo 1 milione, dicono i manifestanti. Tra poco la presidente della Commissione Cultura della Camera, Valentina Aprea. Napolitano chiede il dialogo, i tagli necessari in tempo di crisi, ma serve un confronto aperto. Le borse oggi vanno bene, ma gli italiani sono pessimisti. Solo 3 su 10 riescono a risparmiare. Si consuma più di quanto si guadagna. Domani, giornata mondiale del risparmio. Sono quasi 4 milioni gli stranieri nel nostro paese, dice il rapporto Caritas. Crescono al ritmo di 500.000 in più all'anno, ad aumentare soprattutto i rumeni. E oggi, come abbiamo già fatto la cronaca nella prima parte di Extra Large, la cronaca della giornata di mobilitazione nelle scuole, sciopero generale, poco fa la dichiarazione del segretario della CGIL Epifani, un intero paese insorge. E noi ne parliamo con Valentina Aprea, presidente della Commissione Cultura della Camera, con noi, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo parlato molto della riforma della scuola e delle proteste che in questi giorni studenti, insegnanti, genitori, una parte di questi hanno messo in campo contro queste iniziative. Oggi però c'è lo sciopero generale. Aprea, c'è niente che da questa piazza voi volete in qualche modo recepire? C'è spazio per aggiustamenti? La piazza dei sindacati della scuola merita comunque rispetto e ascolto. Io credo che noi potremo, con la normativa secondaria e quindi con tutta una serie di atti amministrativi, anche di tipo applicativo, sarà possibile accogliere sicuramente qualche suggerimento che oggi arriva dalle forze sindacali, ma io dico soprattutto dalla scuola vera, quella scuola che tutti i giorni ci consente di raggiungere anche livelli di eccellenza in alcune situazioni. Quali suggerimenti, ad esempio, su cosa sareste disposti a modificare qualcosa? Beh, naturalmente noi siamo Parlamento e incalzeremo il governo ad applicare sicuramente le leggi che abbiamo sostenuto e votato, ma è anche vero che essendo il decreto e il piano due interventi di ampia portata, non mancano gli spazi anche di flessibilità. Io sono certa che il ministro Gelmini saprà mantenere e consolidare il tempo pieno, ma anche l'estensione oraria fino a 30 ore nella scuola primaria e il nuovo modello a 24 ore, mantenerlo lì dove ci sarà la scelta delle famiglie. Molte possono essere le scelte flessibili per salvaguardare anche le competenze professionali che in questi anni la scuola ha saputo coltivare e garantire. Ci sta dicendo che la perplessità delle famiglie è sulle famose 24 ore di tempo scuola, non di tempo in cui i ragazzi restano a scuola, ma di tempo in cui fanno lezione. Ha lasciato anche lei un po' perplessa? No, io sono sicura del fatto che sia un intervento positivo con riferimento, diciamo, proprio alla figura del maestro prevalente, soprattutto se scelto dalle famiglie, cioè ci può essere una scelta delle famiglie che vada nella direzione di una frequenza delle lezioni solo in orario antimeridiano. Va rispettata e accanto a questa va tenuta presente anche la possibilità di prevedere un tempo scuola di 27-30 ore proprio perché per la stessa ragione, cioè se le famiglie scelgono un modello anche appena più prolungato. Quindi questa flessibilità 24, 27, 30 e 40 ore può da una parte tranquillizzare e soddisfare le famiglie e dall'altra anche trovare quegli spazi di confronto con le organizzazioni sindacali. Senta, Aprea, qualcuno ha detto si potevano evitare molte proteste, avviare un dialogo più costruttivo se non si fosse operato attraverso la via del decreto. Lei, da Presidente della Commissione Cultura della Camera, su questo strumento, anche in vista delle iniziative sulla università, che cosa ne pensa? Sicuramente la decretazione d'urgenza è stata scelta dal Ministro perché molte di queste misure, ma naturalmente è il caso di dire tutte, hanno a che fare con l'anno scolastico in corso o con le iscrizioni per il futuro anno scolastico che avranno luogo a gennaio. Quindi il Ministro non aveva scelta, doveva assolutamente fare ricorso a questa decretazione d'urgenza per far sì che già dai prossimi giorni si possano stabilire da una parte i regolamenti per le iscrizioni dei bambini, degli alunni al prossimo anno scolastico e certamente anche per quanto riguarda il discorso dell'educazione alla cittadinanza, del voto di condotto. Però non è possibile, insomma, in Italia provare ad avviare un discorso di più ampio respiro sulla scuola che non vada dietro a tempi stretti come possono essere quelli dei successivi anni scolastici che si inseguono e provare appunto a coinvolgere anche il Parlamento in una discussione a livello nazionale. Sarà possibile almeno sull'università, secondo lei? Non c'è dubbio, io mi auguro che siano dei disegni di legge per consentire davvero al Parlamento di favorire un ampio dibattito e insieme al Parlamento anche coinvolgere l'opinione pubblica che in questo momento, però voglio ricordare, ci sostiene senza riserve. Le giro la domanda che dall'opinione pubblica viene più di frequente. perché cominciare dalla scuola elementare, che si dice tra i vari livelli di scuola in Italia era la migliore, e non ad esempio dalla scuola media, che forse è proprio quella, dicono almeno le statistiche, più carente, dove i nostri studenti tra i migliori alle elementari cominciano a cadere? Allora, sicuramente questo intervento sul maestro unico ha a che fare solo sull'aspetto dell'organizzazione del lavoro degli insegnanti della scuola primaria, ed è un aspetto che era stato evidenziato come meritevole di interventi anche dal quaderno bianco di Padoa-Schioppa e di Fioroni, che avevano appunto denunziato il costo eccessivo di molte ore di insegnamento nella scuola primaria, allorquando si trovano più insegnanti in contemporanea che insegnano in una classe. Per il resto, noi abbiamo la riforma Moratti e la riforma Fioroni, che insistono su tutti gli altri aspetti della vita della scuola primaria, dalle indicazioni nazionali al tipo di ore e comunque ai contenuti, e dunque si cercherà ora di armonizzare tutto questo per una scuola primaria che possa rimanere di grande qualità. Ha un messaggio da mandare in queste ore a chi ha deciso di scioperare, a chi è in piazza? Io l'unica cosa che mi sento di dire è che si sta facendo terrorismo psicologico sui precari, sugli insegnanti della scuola elementare, sugli insegnanti di sostegno. Chi vive nella scuola sa che la scuola non sopporta terremoti, e quindi io chiedo di essere più sospettosi di chi lancia, nei confronti di chi lancia questi messaggi terroristici. Ma visto che oggi in piazza c'è proprio il mondo della scuola, che lei dice conosce da vicino la realtà, chi è che manda invece questi messaggi terroristici? I sindacati, il Partito Democratico? Guardi, l'opposizione si è deluso. Il leader dell'opposizione non può addirittura scegliere la piazza e la protesta della scuola per recuperare facili consensi e opporsi ai tagli. Non è credibile, perché il suo governo, il governo Prodi e il ministro Fioroni hanno previsto tantissimi tagli e sono davvero i soliti partiti che scelgono il facile consenso anziché schierarsi per una scelta molto più responsabile. Aprea, le faccio un'ultima domanda per chiudere. Convinti fino in fondo che queste riforme vadano nella direzione del bene dei bambini, dei ragazzi? Io sono più che convinta che noi dobbiamo agire in questa direzione e agire in fretta, perché i costi del nostro sistema educativo sono eccessivi. Deve andare meglio, perché i risultati che ora abbiamo, con troppe materie, tutte obbligatorie, tanti insegnanti e poca attenzione alla personalizzazione dei piani di studio e poca autonomia nelle scuole, non ci hanno portato ad ottenere quei risultati attesi anche rispetto proprio al tipo di investimento pubblico che noi sopportiamo. Grazie allora Valentina Aprea, Presidente della Commissione Cultura della Camera, buona giornata. Grazie a voi. C'è da dire che le manifestazioni intanto vanno avanti, pacifiche in tutte le città italiane. Scontri però ci sono state poco fa a Bologna, dove la polizia è intervenuta anche con i manganelli per fermare la testa del corteo che voleva cambiare percorso. Corteo di Bologna che questa mattina aveva invece rifiutato Beppe Grillo, che era arrivato per aggiungersi ai manifestanti e che la stessa testa del corteo aveva invece voluto escludere. Manifestazioni però, ripetiamo, pacifiche in tutte le altre città italiane. Adesso tiriamo un attimo il fiato, abbiamo parlato del Festival del Film di Roma, andiamo a Venezia, dove il Mediterraneo questa volta è il protagonista in questi giorni del Laboratorio Internazionale di Teatro, diretto dal regista Maurizio Scaparro e prodotto dalla Biennale. Sentiamo. 13 laboratori, 7 spettacoli teatrali, una mostra di costumi e una rassegna cinematografica dedicata a Pasolini, dibattiti e workshop. Sono i numeri del Laboratorio Internazionale del Teatro promosso dalla Biennale di Venezia, che per tutto il mese di novembre ruoterà attorno al tema del Mediterraneo. Sotto l'attenta direzione di Maurizio Scaparro, a Venezia si è avviato un lavoro approfondito di preparazione al prossimo Festival del Teatro della Biennale. Alcuni maestri, alcuni allievi, alcuni attori preparano in questo laboratorio quello che sarà poi lo spettacolo che presenteranno nel festival che noi a fine febbraio faremo, sempre dedicato al Mediterraneo. Tornare a pensare e a vedere quali sono gli ingredienti base per cui un giovane possa essere ancora attratto a fare quella cosa che sembrava preistorica, che invece è sempre più attuale, cioè parlare e fare teatro. Lei l'ha chiamato laboratorio, ma non è solo un laboratorio, c'è di tutto. Sì, laboratorio è un termine bello perché c'è dentro la parola lavoro, ma basta vedere anche le cose a lato, penso alla mostra su Pasolini Mediterraneo, dove si possono vedere 24 costumi dei film di Pasolini girati tutti nel Mediterraneo, dall'Italia del Sud al Marocco allo Yemen. Da una parte riscoprire le nostre radici, d'altra parte ricordarci che l'Europa non è l'Europa delle banche, anche l'Europa del sole, della magia, del gesto e perché no, della parola. Molteplici le sedi dei laboratori, a cominciare dagli spazi dell'Arsenale di Venezia, con il coinvolgimento diretto degli studenti dei vari Atenei cittadini. Anche un impegno concreto, quindi, della Biennale e dell'Università per proporre progetti culturali alternativi a quella che è la monocultura imperante del turismo in Laguna. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. 13:37, le notizie di oggi extra large. Nelle piazze le manifestazioni per la scuola. A Roma siamo 1 milione, dicono i manifestanti. C'è spazio per la flessibilità in Parlamento, dice extra large la presidente della Commissione Istruzione della Camera, Valentina Aprea, del Popolo della Libertà. La piazza va rispettata. I tagli necessari in tempo di crisi, avverte Napolitano, ma chiede un confronto aperto. Così le trattative sono finite, la CAI frena le richieste dei sindacati e torna in bilico il futuro di Alitalia. Mezz'ora di Obama su 7 TV americane. A 5 giorni dal voto il candidato democratico lancia il suo messaggio a reti unificate per ricostruire il sogno americano con un super spot da 6 milioni di dollari. Aggredito ieri sera dopo Bologna-Juventus mentre cercava di salvare il figlio 16enne a cui dei tifosi avversari volevano rubare una sciarpa. Un uomo a Bologna è in prognosi riservata. Sono quasi 4 milioni gli stranieri nel nostro paese, dice il rapporto Caritas, ad aumentare soprattutto i rumeni, il doppio in 2 anni, ma raddoppiano anche le richieste di cittadinanza italiana. Sono arrivate proprio in questi minuti le stime flash che riguardano l'andamento dell'economia americana, stime molto attese che riguardano il PIL nel terzo trimestre. Ebbene, c'è il calo dello 0,3% dell'economia americana, dunque indicazioni recessive che però sono meno gravi rispetto alle attese, perché gli analisti puntavano su un calo dello 0,5%. Che le cose non vadano bene però la conferma l'altra stima, anche questa appena giunta, che riguarda i consumi proprio delle famiglie americane, che sono calate sempre nel terzo trimestre del 3,1%. Una volta tanto in Europa invece ci sono buone notizie che riguardano l'ennesimo calo del tasso Euribor, che è a 3 mesi, che è sceso al 4,79%. E certo, in questo scenario internazionale è difficile parlare di risparmio, ma domani sarà la giornata internazionale per il risparmio. Non stupisce il pessimismo degli italiani, ma stupisce che ancora i dati dicano che si spende molto più di quanto si guadagna. Il risparmio in Italia lo racconta un'indagine presentata oggi, Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. Prevale un forte pessimismo tra gli italiani sulla situazione economica del nostro paese. Più della metà si attende almeno 3 anni di crisi. Sono pochi quelli che prevedono un'uscita veloce. Nell'ultimo anno 2 italiani su 3 hanno vissuto in condizioni di disagio ed è aumentato del 2% il numero di coloro che sono passati ad una situazione di grave difficoltà. Chi ha visto diminuire il proprio potere d'acquisto è stato quindi costretto a ridurre tutti i consumi. Sentiamo il commento del presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti. Mi pare che i dati della ricerca Ipsos confermano intanto che siamo in un momento di difficoltà e di crisi, quindi gli intervistati non potevano non rilevare questo dato, no? E peraltro ci sono aspetti positivi, il fatto che c'è ancora una fascia importante, il 34%, che risparmia risparmio, no, alcuno del risparmio, c'è il lato negativo che ha aumentato un po' la fascia di chi ha consumato tutto il suo risparmio. La propensione degli italiani al risparmio, secondo lo studio, è molto elevata, tuttavia risparmiare non è facile, più di un terzo degli italiani infatti consuma più di quanto guadagna. Tra chi riesce a risparmiare invece la maggioranza preferisce la liquidità, mentre chi investe punta ancora sul mattone. Da Roma è tutto, a voi la linea. E ora parliamo di Alitalia, perché è stata interrotta ieri notte la trattativa tra la CAI e i sindacati sui contratti di lavoro. Il rischio a questo punto è che salti tutta l'offerta per rilevare la compagnia di bandiera. CAI e sindacati si rimbalzano reciprocamente le responsabilità. I 16 soci accusano i rappresentanti dei lavoratori di aver rotto ieri notte la trattativa. Falso, rispondono loro, la colpa è tutta di CAI. La sostanza al momento è che l'accordo per la stesura dei contratti di lavoro non è stato raggiunto. Il rischio è che salti tutto il tavolo, cioè che la cordata di Colaninno non presenti l'offerta per rilevare la parte buona della compagnia di bandiera. Secondo fonti CAI, la rottura si è avuta su alcuni argomenti come i permessi sindacali, la previdenza, i criteri di selezione per la cassa integrazione. I sindacati dal canto loro respingono le accuse e si riuniranno tra poco per fare il punto della situazione. La FIT CISL pensa anche a possibili querele. Il segretario Claudio Genovesi: noi non abbiamo mai affrontato, né discusso, né avanzato richieste sulle agibilità sindacali. Quindi è una menzogna a tutto tondo. Perché stanotte è fallita la trattativa con CAI? Tutta responsabilità della delegazione CAI, che ha impedito, come dire, al tavolo di fare il lavoro che gli era stato affidato dall'accordo di Palazzo Chigi. Roberto Colaninno, infine leader della cordata, esprime forte preoccupazione e chiede alle nuove sigle di essere coerenti. Paola Nania, GR24, sulle 24 ore. Mancano 5 giorni alle elezioni presidenziali per la Casa Bianca. Gli ultimi colpi di campagna elettorale si giocano anche attorno alla decisione di Obama di mandare in onda un super spot e si cerca di capire se avrà effetto o meno. We will win this election and together we will change this country and change the world. Thank you. Se andrete a votare per me, cambieremo questo paese, cambieremo il mondo. Così si chiude il mega spot che Barack Obama, con la vittoria a un passo ma non ancora in tasca, ha voluto che fosse programmato su diversi network televisivi americani, in prima serata e senza interruzioni. Mezz'ora che sembra più un documentario che uno spot elettorale e che è costato al candidato alla Casa Bianca tra i 3 e i 6 milioni di dollari. Obama ha alternato momenti di dialogo con i telespettatori, schegge di comizi della lunga campagna elettorale e storie di gente comune. Rebecca Johnston is all about her family. Brian, me, Nathan, Marley, Ethan, Gabriella. Storie drammatiche, commoventi, di donne e uomini che fanno fatica a far quadrare il bilancio familiare, a mandare i figli al college, a resistere alla crisi. Storia del Kentucky, dell'Ohio, della Florida e del New Mexico, gli stati più in bilico. Juliana Sanchez is a widow with two children and a mortgage. Every morning she's up before the sun. McCain ha commentato con stizza alla CNN. Intanto però l'ultimo sondaggio Zogby, che solo ieri dava 5 punti di vantaggio ad Obama, ora ne registra 7. Valentina Furlanetto, GR24, il Sole 24 Ore. E intanto il nome di Obama finisce pure su un paio di pantaloni di marca italiana, naturalmente. Che cosa accade? Che la Cover Manifattura, azienda di Pinezza, in provincia di Torino, che da un anno fornisce già al senatore dell'Illinois, Obama, un particolare modello di pantaloni, adesso ha deciso di inserire la scritta Obama Style in omaggio proprio al suo più celebre cliente. È uno dei testi fondamentali del Nuovo Testamento, la lettera ai Romani di San Paolo. E quest'anno, che Papa Benedetto XVI ha indetto come anno paolino, la lettera ai Romani è riproposta da Monsignor Gianfranco Ravasi come chiave di lettura del nostro presente. 2000 anni fa San Paolo indirizzava la lettera ai Romani. Nell'anno paolino indetto da Benedetto XVI è riproposta da Monsignor Gianfranco Ravasi, che presiede il Pontificio Consiglio della Cultura, come chiave di lettura del nostro presente. Monsignor Ravasi, cosa ci direbbe il realista Paolo, considerato il Lenin del cristianesimo, se scrivesse oggi la sua lettera? Paolo, nella lettera ai Romani, ha nel capitolo 13 un paragrafo molto importante sulla questione fiscale e quindi lo affronta con molto rigore, esigendo quindi da parte del cittadino cristiano un forte senso dello Stato. E da ultimo direi, è rilevante anche ricordare che il cristianesimo, essendo una religione di sua natura incarnata, storica, esige che il credente sia coinvolto anche nelle realtà economiche, cercando di impegnarsi per una giustizia che non sia soltanto esteriore. E quindi ai nostri giorni certamente c'è anche un appello perché la società abbia anche ad interrogarsi moralmente, eticamente su questi problemi e non soltanto affrontarli a livello tecnico, economico, finanziario. Deve cambiare qualcosa nel nostro rapporto con il denaro? Cristo, quando incontra il famoso ricco del racconto evangelico, dà un'indicazione significativa, non dice di abbandonare masochisticamente il denaro, rinunciando a tutto e buttandolo quasi come fosse un segno negativo e perverso. Dice: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, cioè investi il tuo potere economico perché sia di sostegno a chi è in difficoltà. Quindi il rapporto con le realtà economiche non è un rapporto di ascetismo esasperato. Certamente c'è un'altra dimensione che non bisognerà mai dimenticare ed è questa: il denaro è anche una delle grandi idolatrie. Può diventare un idolo che condiziona la vita stessa delle persone e dei popoli. Allora in questo caso scatta il giudizio religioso e morale. In questo senso possiamo dire che due sono i volti. Da un lato il denaro ha una funzione come mezzo, come strumento, e dall'altra parte però corre il rischio certe volte di diventare quasi una sorta di divinità, un Moloch, e allora è oppressivo e in quel caso è anche divora l'umanità stessa. Daniela Binello, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13 e 49 minuti, 30 secondi, le notizie di oggi. Nelle piazze le manifestazioni per la scuola. A Roma siamo 1 milione, dicono i manifestanti. Qualche scontro a Bologna. C'è spazio per la flessibilità in Parlamento, dice Excel e la presidente della Commissione Istruzione della Camera, Valentina Prea del Popolo della Libertà. La piazza, aggiunge, va rispettata. Recessione per gli Stati Uniti, il prodotto interno lordo cala dello 0,3%, meglio però delle attese. Sono quasi 4 milioni gli stranieri nel nostro paese, dice il rapporto Caritas, raddoppiano le richieste di cittadinanza italiana. Partiamo proprio da qua, dal numero di immigrati che sono presenti in Italia, appunto quasi 4 milioni, circa il 7% della popolazione, dati come ogni anno che sono forniti dal rapporto della Caritas, un'onda inarrestabile. Un'onda inarrestabile perché solo nell'ultimo anno la popolazione straniera è aumentata di circa 500.000, una realtà con la quale si devono fare i conti e per farlo bisogna conoscerla. Allora, tutti i dettagli ce li racconta Vanessa Colangiuli, che ha seguito per noi la presentazione del rapporto. Buongiorno. Sì, buongiorno dal Teatro Orione di Roma. Come avete detto, è stato appena presentato il 28° volume statistico sull'immigrazione a cura della Caritas Migrantes. Sono 4 milioni gli immigrati irregolari in Italia, secondo la Caritas, con un aumento di diverse centinaia di migliaia rispetto all'anno precedente. La maggior parte risiede al nord e al centro, in testa con il più alto numero di immigrati la Lombardia, seguita dal Lazio, con il loro tasso di attività del 73%, di 12 punti più elevato rispetto agli italiani, concorrono per il 9% alla creazione del PIL. Ma sentiamo Monsignor Vittorio Nossa della Caritas italiana. Più si insiste e si investe in termini di integrazione, quindi di opportunità lavorative, abitative, culturali, più sono affrontabili anche quelle frange, quei problemi, quei nodi che sono presenti e che vanno opportunamente considerati. E poco fa il ministro del Lavoro e della Solidarietà Sociale, Maurizio Sacconi, ha parlato delle necessarie politiche di integrazione, elencando quali dovranno essere gli obiettivi: lingua, casa, lavoro regolare. Ha poi fatto riferimento all'integrazione in questo particolare momento di crisi. Sentiamo. Che la crisi non aiuterà l'integrazione. E dovremo anche modulare con attenzione i flussi che potremo accogliere nel nostro paese in termini compatibili con le capacità di occupazione della nostra economia e della nostra società. qualche dissenso. Il ministro Sacconi l'ha riscosso quando ha fatto accenno al problema della criminalità, ai comportamenti non condivisi che possono impedire l'accoglienza. Il filo conduttore di questo dossier è la necessità di un pacchetto di integrazione e non solo sicurezza. E gli immigrati oggi vogliono costruire, secondo quanto ci hanno raccontato, vogliono costruire il loro presente, il loro futuro con altre parole e altri stimoli, tra cui interazione, parità, riconoscimento dei diritti, come quello della cittadinanza italiana prima dei 18 anni ai figli nati in Italia da immigrati. Da Roma è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Vanessa Colangiuli. Adesso vi vogliamo parlare del restauro di quello che è uno dei più grandi capolavori dell'arte italiana, la Madonna del Cardellino di Raffaello. 10 anni di restauro per riportare al suo antico splendore la Madonna del Cardellino. Il dipinto ad olio su tavola realizzato da Raffaello nel 1506, quando aveva soltanto 23 anni. Un capolavoro di straordinaria bellezza, realizzato dal pittore italiano per il matrimonio di un ricco commerciante di panni di lana, Lorenzo Nasi, con una donna dell'alta borghesia fiorentina, Sandra Canigiari. Una tavola bellissima ma particolarmente sfortunata, perché quando nel 1547 una frana spaventosa fece crollare verso l'Arno tutta la collina di San Giorgio e le sue case, crollò anche il palazzo in cui l'opera era custodita. Da allora la tavola, che si frantumò in vari pezzi, è stata via via incollata, patinata e riverniciata con l'aggiunta di materiali sempre nuovi per nascondere i guasti. Ora il restauro del capolavoro, in cui si vede l'impronta leonardesca, si è definitivamente concluso. Un restauro complesso che vuole assicurare l'unità dell'immagine. Marco Ciatti, responsabile del settore restauro dipinti dell'opificio Pietre Dure. Il restauro antico è stato conservato integralmente, ma è stato messo in condizioni di valorizzare la parte originale di Raffaello, cioè assolutamente evitare una presentazione finale dell'opera che mostrasse quella che è la sua reale frammentarietà. Prima di tornare nella sua collocazione originaria alla Galleria degli Uffizi di Firenze, l'opera farà tappa nella mostra L'amore, l'arte e la grazia, Raffaello, la Madonna del Cardellino restaurata, mostra curata dallo stesso Marco Ciatti e dal direttore della Galleria degli Uffizi, Antonio Natali, e allestita a Palazzo Medici Riccardi, sede della provincia del capoluogo toscano, dal 23 novembre fino al 1 marzo del 2009. Adriana Fracchi, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere torniamo a quello che è il tema di giornata. Sciopero generale per la scuola, cortei e manifestazioni in tutta Italia. Scontri, notizie di tafferuglie arrivano però in questi minuti da Bologna. La testa del corteo sta cercando di raggiungere la sede della Confindustria di Bologna. Di fronte schierato un cordone di polizia per cercare di sfondare, alcuni studenti hanno lanciato contro i poliziotti bottiglie di birra e vernice bianca. Gli agenti, oltre a difendersi con gli scudi di plastica, hanno cominciato anche a manganellare i collettivi nelle prime file. La notizia è anche quella di una giornalista del Corriere di Bologna che è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. Caso isolato per fortuna per ora quello di Bologna. Certo, siamo quasi in chiusura, però vogliamo tornare a Roma dove si svolge il corteo principale della giornata. Siamo quasi 1 milione, dicono gli organizzatori. Francesca Malaguti. La piazza del Popolo è tutto tranquillo, si sta lentamente svuotando la piazza, non tutti i manifestanti sono riusciti a entrarvi, molti sono rimasti nelle vie laterali, hanno sfilato in corteo a fianco di insegnanti, studenti e personale scolastico anche diversi politici, avete sentito poco fa la voce del leader del Partito Democratico Walter Veltroni, oltre ovviamente ai segretari di CGIL, CISL e UIL. I segretari generali di CGIL e CISL sono intervenuti dal palco con due accorati interventi, Raffaele Bonanni ha detto sulla scuola siamo tutti uniti, ha aggiunto i tagli non sono riforme ma un modo per confermare la controriforma in atto. Epifani ha invece richiamato all'unità sindacale e ha affermato è assurdo che in Italia si facciano 8 miliardi di tagli mentre in tutto il mondo si investe sulla scuola pubblica. E da Piazza del Popolo è tutto, a voi la linea. Piazza in piazza, cortei e cori per la scuola, lezioni ferme in elementari, superiori e università. A Roma siamo 1 milione, dicono i manifestanti. Scontri a Bologna. Il presidente della Commissione Cultura Aprea, c'è spazio per discutere l'applicazione della legge. E Napolitano chiede il dialogo, i tagli necessari in tempo di crisi, ma serve un confronto aperto. Recessione per gli Stati Uniti, il prodotto interno lordo cala dello 0,3%, meglio però delle attese. Così le trattative sono finite, la CAI frena le richieste dei sindacati e torna in bilico il futuro di Alitalia. Genova isolata, chiusi il porto e l'aeroporto, allagati i binari ferroviari, la mareggiata del secolo fa andare sott'acqua le coste liguri. L'Italia che cambia, sono quasi 4 milioni gli stranieri del nostro paese e molti vogliono la cittadinanza italiana. Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio, è tutto per questa edizione del GR Extra Large, il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Carmelo Lauricella. Ci sentiamo domani a partire, come sempre, dalle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.